Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria in cui pur cercando, come dicevamo anche ieri, di rientrare con una qualche forma di normalità, ci occuperemo anche di quanto sta continuando a svilupparsi a Bruxelles, devo dire oggi più sul fronte dei ragionamenti che abbiamo visto fare da varie associazioni anche sull'impatto di questi attentati sulla Pasqua imminente, l'impatto è chiaramente anche sul turismo. Per ora dico subito che ci sono stime, ipotesi, qualche dato di fatto sia disdette nel caso specifico di Pellegrini a Roma per il Giubileo. In realtà, se andiamo a vedere le previsioni diffuse dai principali soggetti, mi riferisco a Federalberghi da un lato e poi a Confturismo, i dati intanto non sono brutti rispetto alle intenzioni di vacanza, e soprattutto la variabile più citata come scelta è quella che riguarda il costo, e quindi è chiaro che tutto un insieme di valutazioni sono state fatte nelle settimane precedenti, ma insomma è la variabile economica per molti italiani. Certo che pesa a livello invece di flussi di turisti esteri l'allarme lanciato dal Dipartimento di Stato l'altro ieri, e il Dipartimento di Stato americano chiaramente, che ha messo in allerta i cittadini statunitensi per i potenziali rischi nel viaggiare verso e attraverso l'Europa. Un allarme che nella forma in cui viene espresso resta in vita fino almeno al 20 giugno, dice il Dipartimento, ha scritto il Dipartimento di Stato. Gruppi terroristi continuano a pianificare in breve termine attacchi in Europa, prendendo di mira eventi sportivi, luoghi turistici, ristoranti e trasporti. Di questo parleremo anche dell'altro grande fronte, diciamo, di questa giornata economico-finanziaria. Mi riferisco alle banche italiane, top of the pop, come l'abbiamo chiamato, nel senso che le popolari vedono nel matrimonio tra Banco Popolare e Popolare di Milano vedranno la nascita del terzo gruppo bancario italiano con 170 miliardi di attivi, 5 miliardi e mezzo di capitalizzazione, 2.500 sportelli e quasi 25.000 dipendenti per 4 milioni di clienti. Questo insomma, è il risultato del sostanziale via libera dell'operazione arrivato da Francoforte dopo che le banche hanno di fatto, diciamo, tutto accettato quello che erano le condizioni poste dalla Banca Centrale Europea. C'è questo, Saviotti oggi dice non ci saranno licenziamenti, chi uscirà è perché vorrà partecipare ai fondi di solidarietà, così appunto il numero uno del Banco Popolare. Decideremo all'ultimo momento le modalità per l'aumento di capitale da 1 miliardo. E poi ha detto, insomma, sono felice di chiudere la mia carriera con un risultato unico. Ne parleremo più avanti. Parleremo anche dei rimborsi per i famosi obbligazionisti, per quello che riguarda, mi riferisco in questo caso non al Banco Popolare e alla Popolare di Milano, ma mi riferisco anche a quello che il governo intende fare sulla parte dei rimborsi degli obbligazionisti subordinati rimasti fregati dalla procedura di risoluzione attivata lo scorso 22 novembre, e quindi Popolare Etruria, Carichieti, Ferrara e Marche. Da quello che si capisce, domani comunque arriverà il decreto, il governo potrebbe imboccare la strada di un risarcimento che non vada ad analizzare il caso per caso, e quindi abbastanza rapido, e che rimborsi sostanzialmente tutti i 10.559 obbligazionisti rimasti penalizzati. Il decreto vorrebbe dire poi portare a 280 milioni di euro la dotazione per questo, per il fondo per rimborsare gli obbligazionisti. Domani appunto dovrebbe arrivare la decisione di Palazzo Chigi, noi ne parleremo già oggi, in una giornata in cui le borse per quello che riguarda Milano e anche le altre borse europee sono negative, -1,60 Bruxelles, -1,90 Parigi, -1,50 Francoforte, -1,25 Londra, -0,30% il Dow Jones, euro su dollaro a quota 1,11, FTSE MIB -1,20% in questo momento. Tra i titoli guadagnano Snam +1,30 come Terna, Enel +1,20 come Enel Green Power, lo 0,90% A2A. Fronte opposto, Pop Milano -5% come Saipem, Monte dei Paschi -4,70, Ubibanca -4,5, Banco Popolare -4,20, Fiat -4, Mediaset -3,5, Telecom -3,30, Buzzinice -2,60, Ferragamo -2,40, Mediobanca -2,30 come Exor, Unicredit perde il 2% come Unipol e Generali. Allora, 349-238-6666 per i vostri sms e WhatsApp, poi c'è la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, rapidamente le altre notizie in breve. Allora, le altre notizie, il petrolio oggi torna sotto i 40 dollari al barile, a 38,8 dollari al barile, questo giustifica anche una debolezza dei petroliferi, penso soprattutto a Eni, appunto -1,90, Saipem -5, pesano diciamo i rischi, lo afferma il Fondo Monetario Internazionale, i prezzi del petrolio pesano e complicano la politica monetaria perché sostanzialmente riducono le aspettative di inflazione e anzi mantengono in molti casi una deflazione. Di fatto i benefici globali, continua il Fondo Monetario, dei bassi prezzi del petrolio si materializzeranno solo dopo che i prezzi saranno un po' risaliti e dopo i progressi delle economie avanzate in un contesto di tassi zero. Faccio notare però che, e questo farà arrabbiare gli ascoltatori, ne parleremo, che sono tornati a salire i prezzi della benzina. Dopo una cioè è bastato che il petrolio tornasse vicino ai 40 dollari per far risalire i prezzi. A 1,407 al litro in Italia contro 1,391 della settimana scorsa, e il gasolio è fatto da 1,230 a 1,243. Lo dice il centro studi Promotor, qui non c'entra il prezzo della benzina, del petrolio, lo dico, tanto ogni anno è così. Questo si chiama effetto Ponte Pasquale, è la cattivissima abitudine dei gestori di carburante di aumentare i prezzi di qualche centesimo, ma chi se ne frega, proprio quando c'è un esodo pasquale. Lo abbiamo visto fare anche con altri grandi ponti e anche in estate. Quindi non mi dite che siccome nelle ultime due settimane il petrolio ha fatto da 37, 34 a 40, subito con una cinghia di trasmissione incredibile, no, aumentano i prezzi perché milioni di italiani sono in moto, per in moto nel senso che in macchina, in moto, in movimento, per l'esodo pasquale. Su, via. Allora, volete sapere di altri titoli? Poi arriveremo. Telecom male, confermo chi me lo chiede. Non c'è solo la Pop Milano che perde 5,30, Saipem 5,10, Ubibanca il 5, il Monte dei Paschi 4,70, il Banco Polare 4,5, c'è appunto Fiat Chrysler che perde 4,20, Mediaset il 3,80 e Telecom il 3,5%, negativa anche Buzzi Unicem del 3,20, Mediobanca del 2,60 come Ferragamo, Exor e Unipol -2,40%, Unicredit -2,30%. Come Generali del resto, Anima e Popolare Emilia Romagna -2,20, Eni -2%.

diciamo, che vede crescere non tanto la durata quanto la presenza. Le mete preferite per il 91% degli italiani che saranno al mare, che saranno nel bel paese, scusatemi, non al mare, sarà il mare. Comunque uno su tre sceglierà il mare, poi le città d'arte un altro terzo, la montagna il 23%. E i pochi che andranno all'estero, perché stiamo parlando del 9% del totale che si sposterà, andranno principalmente nelle capitali europee, i due terzi, e poi qualcuno anche nella località marina e in crociera. La permanenza media sarà di 3 notti e mezzo, con una spesa pari a 332 euro, o meglio, chiaro che spenderà un po' di meno chi resterà in Italia, 306 euro in media, e invece quasi il doppio del doppio chi andrà all'estero, 639 euro. Complessivamente vuol dire una spesa che si genererà per 3 miliardi e 200 milioni di euro. Anche in questo caso aumenta anche in valore la spesa, non solo come numero di italiani che andranno in vacanza, più 4,5%. Infine, le strutture ricettive preferite: la casa di amici, parenti, la casa, seconda casa per 1 su 3, l'albergo in aumento dal 27 al 28%, la casa di proprietà appunto 13%, bed and breakfast 8%, appartamento in affitto il 4%. Il commento del presidente Federalberghi Bernabò Bocca al microfono del nostro Andrea Viali. Sono dati positivi, è vero che i nostri dati riguardano gli italiani in vacanza, ma noi stimiamo saranno circa 10 milioni gli italiani che si muoveranno durante le vacanze di Pasqua, e il dato più interessante è che il 91% di questi 10 milioni trascorreranno le vacanze nel nostro paese, quindi questa è la riconferma di una tendenza che noi già abbiamo visto nell'ultimo periodo, cioè una riscoperta dell'Italia da parte dei turisti italiani. Ovviamente quello che è successo a Bruxelles desta preoccupazione più che pessimismo, noi però abbiamo piena fiducia per quanto riguarda le nostre forze dell'ordine, le nostre istituzioni, riteniamo che stiano facendo un ottimo lavoro per garantire un livello di sicurezza al nostro paese, e non riteniamo poi che l'Italia sia più a rischio di altri paesi europei, ecco, per cui noi continuiamo a guardare il 2016 con un ottimismo assoluto. Come albergatori, quanto vi preoccupa invece l'allerta del Dipartimento di Stato americano che ha invitato i cittadini americani a non andare in Europa per rischi di nuovi attentati? Ci sono state già delle cancellazioni? Al momento no, il tema non è tanto le cancellazioni quanto un eventuale rallentamento delle prenotazioni. Anche dopo Parigi il Dipartimento americano fece la stessa comunicazione ai cittadini americani, e devo dire che dopo 1 o 2 settimane di rallentamento delle prenotazioni siamo tornati in una fase di normalità. Io credo che d'altronde noi dobbiamo imparare purtroppo a convivere con una situazione come quella attuale. L'importante è, ecco, che in Italia non accada nulla e che ci sia una garanzia come quella che le istituzioni ci stanno dando di controllo del territorio. Allora, nel frattempo qualcuno mi chiede la classifica. La classifica è venerdì. Io capisco che oggi uno possa essere già in vacanza con la testa, le scuole sono chiuse, ma oggi è giovedì, non capisco chi mi dice 5 milioni di viaggiatori in meno. No, guardate, i dati che stiamo diffondendo sono quelli di Federalberghi e vi confermo le cifre: più 7% il numero di italiani in vacanza rispetto a Pasqua del 2015. Comunque, forse qualcuno si confonde con un altro sondaggio, insomma, ma stiamo ragionando di quelli diffusi oggi. A Capri, come ogni, dice, che cavolo c'entra Capri? Beh, come ogni anno a Capri la stagione turistica inizia con Pasqua, e c'è questo rito del Gran Pavese issato sulla facciata dell'hotel Quisisana, in cui le bandiere di vari stati vengono esposte. Faccio notare che oggi le bandiere erano, e va avanti da oltre 20 anni questo rituale, erano tutte a mezz'asta, in segno di cordoglio e vicinanza chiaramente al Belgio e all'Europa. Ripartiamo da qui con Luca Patanè, presidente di Confturismo Confcommercio, nonché presidente del gruppo UVET. Buonasera Patanè. Buonasera a tutti. E grazie anche a Gianprimo Quagliano, direttore del Centro Studi Promotor. Buonasera Gianprimo. Buonasera Sebastiano. Non parliamo di Audi, immatricolazioni, perché tu di fatto parli di questo, ma di questa simpatica abitudine di aumentare il prezzo del carburante quando c'è il ponte, l'esodo pasquale o altri esodi. Allora, restate con me, ho il metodo della pubblicità, poi vorrei capire con Patanè, sia all'interno di questi dati aggregati, quali siano le caratteristiche che lui vede in quello che loro chiamano incoming e anche outgoing. Però da questo punto di vista, quindi chi va all'estero e chi viene dall'estero in Italia, da questo punto di vista, tra l'altro, vorrei anche capire se i timori, le disdette che vediamo sono più un effetto mediatico, per cui bastano 10 disdette, i giornali ci fanno i titoli, mi riferisco ai pellegrini a Roma soprattutto, o inizia a esserci qualche segnale di forte preoccupazione nel muoversi. Meteo e pubblicità, 349-238-6666 per i vostri sms e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la risposta dopo. State ascoltando un programma offerto da Aruba, soluzioni cloud per le imprese, solo su www.cloud.it. Focus Economia. Minuti. Allora, presidente Patanè, all'interno di questi dati che sono comunque positivi, complessivamente positivi, però negli ultimi giorni avete già notato cambiare atteggiamento, orientamento, soprattutto sulle mete all'estero e sugli stranieri che devono arrivare in Italia, in particolar modo a Roma, che sappiamo tutti viene vista per motivi molto chiari, molto ovvi, come, diciamo, se bisogna pensare a un obiettivo in Italia, uno pensa a Roma. Prego, Patanè. Ma guardi, non abbiamo ricevuto orientamenti che vengono dalle agenzie in termini negativi rispetto alla destinazione Roma in questo momento, se non in linea con i trend già attivi. Diciamo che l'effetto giubileo non si è ancora manifestato, secondo me, pesantemente su Roma, e noi, secondo le nostre previsioni, dovrebbe essere da settembre in poi. Però, tornando alla Pasqua e ai dati espressi da Federalberghi, cioè dire, quest'anno abbiamo avuto un calendario particolarmente favorevole. Favorevole? Sì, perché secondo me, anche avendo scaglionato il 25 aprile e il 1 maggio più avanti, permette di selezionare meglio. Il 25 aprile e il 1 maggio sono rimasti fermi dove erano, Patanè. No, abbiamo anticipato la Pasqua. Abbiamo anticipato la Pasqua. No, certo, volevo dire quello, sì, certo. Chiaramente. Quindi diciamo che questo può permettere di fare di operare una scelta migliore e quindi una soluzione migliore. I dati sono positivi, ma erano in linea con i trend che ci aspettavamo già da un po', che abbiamo visto che c'è una ripresa dei consumi in Italia per quanto riguarda i viaggi, e da questo punto di vista è un dato estremamente positivo per gli albergatori e per le agenzie di viaggi. Per quello che vi dico, per quello che risulta a noi sull'outgoing, quindi diciamo sugli italiani che vanno all'estero, sta andando molto bene il discorso delle crociere, Dubai, Abu Dhabi, quell'area lì del Oman, quell'area lì del Golfo, che un po' sta sostituendo, ma non il Mar Rosso. Parola grossa dire che sostituisce il Mar Rosso, però diciamo un'alternativa al Mar Rosso. Da questo punto di vista è un trend di crescita negli ultimi anni che sembra interessante, come nuove destinazioni, intendo come area. È percepita sicura e quindi ha tutto una certa serie di vantaggi che ovviamente purtroppo il Mar Rosso non ha più e non so quando torneranno. Dal punto di vista invece degli stranieri che vengono in Italia, esatto, l'altra domanda era sugli stranieri. Gli stranieri hanno un trend positivo, l'abbiamo notato dall'anno scorso, inizio anno. Quest'anno non abbiamo ancora i dati, ovviamente sulla Pasqua i dati di provenienza degli stranieri non li abbiamo, però abbiamo dei dati sul forecast delle prenotazioni, le previsioni delle prenotazioni, che sono positive, e sono positive per tutto l'anno. Secondo me quest'anno sarà un anno molto buono per tutto il comparto del turismo italiano, quindi albergatori e ecco, Patanè, però non sfugge a nessuno che in questi ultimi anni noi ci siamo avvantaggiati, è brutto dirlo, è cinico dirlo, ma è così, del venir meno appunto del Mar Rosso in primo luogo, della Tunisia, dell'Egitto in generale, anche la Grecia, diciamo la Turchia figuriamoci, la Turchia e la Grecia per via degli sbarchi. Quindi molti stranieri, oltre che alcuni italiani, molti italiani sono rimasti in Italia, ma molti stranieri hanno optato per l'Italia oltre che per la Spagna. Non sfugge a nessuno però che se il Dipartimento di Stato americano e altri ministeri degli esteri mettono in guardia i loro cittadini sul venire in Europa, perché a questo punto le bombe erano a Parigi e poi a Bruxelles, e questo meccanismo di trasferimento da flussi, diciamo, turistici nel Nord Africa piuttosto che nel Medio Oriente, nel vicino Medio Oriente o in Turchia, beh, non temete che a questo punto la disdetta possa riguardare l'intera Europa? Guardi, avevano fatto lo stesso gli americani quando erano successi gli attentati di Parigi sulla cautela nel viaggiare e muoversi negli aeroporti. Gli americani sono continuati a venire. È difficile fare delle previsioni secche. La cosa che possiamo dire è quando i russi gli è stato detto di viaggiare meno, di spendere meno, perché anche si era svalutato il rublo, in effetti sono venuti meno in Italia, in Europa e in Occidente. Questo sicuramente è successo, quindi ovviamente i divieti politici o ovviamente la percezione di un'insicurezza generalizzata sull'Europa può causare ovviamente un danno, questo sì, però oggi non è quantificabile e se lo vedo con i dati di previsione futura non mi sembra. Io mi auguro che lei abbia ragione, nel senso che di tutto abbiamo voglia e bisogno, tranne che di un calo del turismo che sta lentamente... Lentamente, molto lentamente. No, lo dico e speriamo che sia un po' più veloce nel sud, dove invece noi ci auspichiamo una grande crescita del turismo nel sud, ne abbiamo tanto bisogno. Sì, lì servono un po' le infrastrutture, ma anche un cambio di mentalità, glielo dico Patanè, sì. Nel senso che le infrastrutture si vengono sempre, è vero che in alcuni casi mancano le infrastrutture, ma conosciamo tanti altri casi nel nostro mezzogiorno in cui il problema non sono le autostrade, gli aeroporti, ma è la testa della gente, lo dico in maniera molto chiara. Se tu continui a trattare il turista come mordi fuggi, come selvaggina da passo, diciamo, allora non ci capiamo. Se tu inizi a dare un servizio, un valore aggiunto e capisci che sei in concorrenza con altre destinazioni e località, allora ci capiamo un po' di più. Glielo dico, visto che Patanè, se non ricordo male, lei è originario, è della Sicilia, originario, per cui insomma lo sa anche lei che quello che lo funziona sono un po' le infrastrutture, ma anche la testa. Sicuramente anche la testa, bisogna svegliarsi, questo sicuramente, bisogna svegliarsi e bisogna andare a prendersi i turisti non soltanto perché le congiunture sono favorevoli, ma perché offriamo un buon servizio e abbiamo buona qualità, oppure rimaniamo aperti anche rischiando, ad esempio il caso di Ischia, citava Capri, ma io cito Ischia, sì. Ischia c'è un terzo degli alberghi che è aperto e due terzi che oggi sono chiusi, perché la Pasqua è presto, perché? Sono anche piccoli imprenditori, uno deve anche rischiare, tenere aperto e magari questa Pasqua avrebbe graziato meglio. Gli altri alberghi sono tutti pieni, ovviamente. Vabbè, uno può non aprire o perché non ha voglia o perché non ha bisogno. Se non hai voglia e non hai bisogno. Non hai bisogno, beato te. Vabbè, allora intanto ringrazio Luca Patanè, però Gianprimo Quagliano, qui con te devo toccare un tema un po' più delicato. Allora, dimmi che non è vero che questi aumenti del prezzo della benzina e del diesel da 1,391 a 1,407, prezzo medio alla pompa. Il gasolio da 1,230 a 1,243 non sono frutto del fatto che si muovono appunto milioni di quasi 10 milioni di italiani, di cui il 90%, quindi diciamo 9 milioni, poco meno di 9 milioni si muoveranno in Italia, ma sono frutto, diciamo, dell'aumento del prezzo del petrolio. No, non credo che siano frutto dell'aumento del prezzo del petrolio. Bene. Sono frutto del fatto che si prevede un aumento dei consumi e quindi la legge della domanda e dell'offerta fa sì che si aumentino i prezzi, anche se suona ovviamente molto molto male, perché i prezzi dei carburanti sono scesi fino alla seconda settimana di marzo e nella terza settimana di marzo ci sono stati questi aumenti che tu hai segnalato, che sono ufficiali, perché riguardano da rilevazioni del Ministero dello Senti, Sviluppo. Fammi indovinare, incredibilmente finita la Pasqua scenderanno? È molto probabile. E come è molto probabile che in giugno, ma soprattutto in luglio, ricominceranno ad aumentare. È successo così tutti gli anni, poi in settembre calano ovviamente. Allora, io e vedo molti messaggi, la maggior parte dicono che sono dei banditi, altri dicono vabbè, è il mercato, se tu vai in un posto, non so, visto che parlavamo di spiagge di mare, nella spiaggia dove c'è un unico chiosco, lui l'acqua te la fa pagare 2 euro, faccio per dire, e tu sei obbligato a berla o te la porti da casa. Il problema qui è che portarsi da casa la benzina è un po' più dura. Certo, uno può fare il pieno prima, potrebbe mettere in pratica alcune tecniche. Dov'è che si pone il confine tra, ok, lì dire, vabbè, sappiamo che molti si muovono, aumento i prezzi adesso che si muovono, e il dire, beh, questi però fanno un'operazione scorretta? Ma che sia scorretta non si può dire, certo non è elegante. I prezzi stanno peraltro aumentando in maniera molto lieve per il momento, ma questo dato di 1,407 per la benzina e di 1,243 per il gasolio è della settimana scorsa. Io penso che questa settimana aumenterà ancora. Quindi, d'altra parte, però allora mi fanno notare gli ascoltatori che un conto è per un unico chiosco, ma qui sono tutte le compagnie che che fanno cartelle, non concorrenza. Ora i cartelli non dovrebbero accadere nel mondo, cioè se c'è un libero mercato, vabbè, però questo è un cartello in effetti. Ma che facciano cartello è tutto da dimostrare. Infatti operano, ognuno opera indipendentemente, le condizioni che si creano sono le stesse, quindi d'altra parte gli automobilisti qualche accortezza dovrebbero averla. Ad esempio, tutti sanno che in autostrada la benzina e il gasolio costano di più. Tutti sanno che i carburanti speciali, quelli che hanno additivi, costano di più di quelli normali. Allora la nostra macchina ha proprio bisogno dei carburanti con gli additivi? Se aiutano a inquinare meno, no, additivi no, se aiutano a inquinare meno magari sì. Se aiutano a inquinare meno, non lo so. Non mi sembri molto sorpreso, voi siete usciti con questo dato, ma non mi sembri molto sorpreso. Assolutamente no, perché è quello che è successo regolarmente in occasione, in previsione dei grandi esodi, tutti gli anni. Senti, a voi avete fatto anche la stima del periodo gennaio-febbraio, dove la spesa per benzina e gasolio è stata di 7 miliardi e 257 milioni contro gli 8 miliardi e 115 milioni dello stesso periodo del 2015, quindi i primi due mesi. Sono 860 milioni di euro in meno, ma dovuti a un minore utilizzo dell'auto o a una riduzione del prezzo del petrolio? No, perché i consumi sono aumentati, anche se in maniera lieve, dello 0,6%. Sono dovuti alla diminuzione dei prezzi, no, che c'è stata buona, fino, certo, alla seconda settimana di marzo. Tra l'altro la diminuzione dei prezzi del 2015 ha portato a risparmiare ben 7 miliardi e 100 milioni agli automobilisti e ai camionisti italiani. Quindi è stato un dato molto positivo. E fra l'altro non ti dico cosa mi stanno scrivendo gli ascoltatori: andando in Liguria siamo a 1,70, può essere in autostrada, può essere tutto. E invece in Slovenia, Simone deve arrivarci in Slovenia, io ringrazio per la segnalazione, 1,038 il diesel, ho capito, devi arrivare in Slovenia, devi fare anche il calcolo se ti conviene arrivare in Slovenia, fare il pieno quanto ti costa. Sappiamo che all'estero costa meno. Comunque dicevi che questo calo di ben 858 milioni è dovuto al calo del prezzo. Assolutamente sì, che i prezzi sono calati in maniera notevole da partire nel 2015 rispetto al 2014, e questo calo è continuato anche per gennaio, febbraio e le prime due settimane di marzo. Con l'effetto che il fisco quanto è incassato di meno, perché essendoci le accise ma anche l'IVA, se cala l'imponibile cala anche l'incasso per il fisco. Il fisco ha incassato di meno 140 miliardi, 140 milioni, 139 per l'esattezza, mentre le compagnie petrolifere e i distributori hanno incassato di meno 719 milioni. E quindi 700 milioni. Ecco, i Codacons oggi segnalano, così chiudo anche con te, che l'aumento dei prezzi della benzina fatto in occasione del periodo del diesel e del gasolio fatto in periodo pasquale, ci sarà una maggior spesa per un pieno pari mediamente a 2,5 euro, 45 milioni di euro in più complessivamente per gli italiani, che ringraziano, mentre io saluto e auguro buona Pasqua a questo punto anche a Gianprimo Quagliano. Traffico. Focus Economia. Allora, vedo. Dunque, un ascoltatore mi dice: vogliamo chiarire meglio come il Sud dovrebbe cambiare la testa per favorire il turismo. Oggi le è uscita questa cavolata. No, guardi, mi dispiace ribadire quello che dico, che in molte. Allora, il Sud ha un problema anche di infrastrutture. Però non rifugiamoci sempre e solo dietro il tema dell'autostrada, dell'aeroporto. Andate a vedere, c'è anche l'incapacità di sviluppare i servizi, i tour operator, creare i pacchetti. Mi potrei fare in tre puntate su questo. Vogliamo prendere il caso di Vibo Marina, vicino a Vibo Valentia. L'aeroporto di Lamezia Terme è un aeroporto internazionale, funziona bene. È lì vicino, l'autostrada, la Salerno-Reggio Calabria lì è già fatta a tre corsie. Gli aliscafi vanno molto rapidamente alle Eolie, non c'è un pacchetto, un tour operator, niente, è molto più facile andare alle Baleari da Milano che andare alle Eolie. E ripeto, non c'è neanche la struttura per far questo, è la testa. Se uno pensa che il turista debba sempre essere in qualche modo utilizzato, mordi e fuggi, non investi su. Poi ci sono casi anche di eccellenza al Sud, di situazioni in cui si è migliorato moltissimo anche la capacità di accogliere, pensate al Salento, alcune aree della Sicilia, manca l'appello completamente alla Calabria. Però insomma, non vorrei fare la puntata sul Sud del turismo, anche se è inutile continuare a riempirsi la bocca del nostro quanto è bello il nostro mare se poi non lo sappiamo far vedere e non riusciamo a organizzare pacchetti, offerte, La borsa, meno 1,60% Milano, meno 2,13% Parigi, meno 1,70% Francoforte, meno 1,50% Londra, meno 0,50% il Dow Jones, euro quota 1,11%, Saipem meno 0,5%, meno 5,53%, Pop Milano meno 5,30%, Monte dei Paschi meno 5,20%, Ubibanca meno 4,80% come il Banco Popolare, Fiat meno 4% come Mediaset, Telecom meno 3,80%, Buzzi Unice meno 3,20%, Mediobanca meno 2,80% come Exor e Unicredit e anche la Pop Emilia Romagna. Fronte opposto, Snam più 1,1% come Terna, Enel più 0,80%, Enel più 0,50% come A2A. Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Oggi abbiamo Snam e le utilities che vanno benino, sono le uniche che vanno un po' bene. Lasciamo stare BPM, Banco Popolare, che ne parliamo dopo. Invece abbiamo visto di nuovo flettere Snam ed Eni. Eni oggi ha perso il voto al Standard & Poor's, gli ha dato una tripla B più con un outlook, con una prospettiva stabile, una decisione che è stata presa dopo l'abbassamento degli scenari sul prezzo del petrolio. Sì. Diciamo che il quadro di borsa del FTSE MIB è stato fondamentalmente all'insegna dei difensivi, cioè i pochi titoli in risalita sono state proprio le utility, A2A, Enel, che ieri aveva dato le indicazioni dopo i risultati e anche sui progetti della fibra, la stessa Enel Green Power, per cui si sta completando il percorso di integrazione in Enel, Terna, che oggi tocca i massimi storici sopra i 5 euro. E Snam. Dall'altro canto invece la flessione delle materie prime e del petrolio, che è arrivato a perdere anche oltre il 3%, perde ora l'1,5%, ha penalizzato l'industria petrolifera nel suo complesso. Tu facevi riferimento a Eni, ma anche Saipem ha pagato un 5,5% e Tenaris l'1,3%. Nel complesso il timore, dopo alcune indicazioni arrivate da membri della Fed, è che mentre ci si stava scommettendo per un ritocco dei tassi Fed non prima di giugno, qualche indicazione ha fatto pensare che possa esserci già una mossa in aprile, e questo sta aumentando le incertezze in queste ultime due sedute. Allora, questo per quello che riguarda invece la borsa. Devo dare la linea adesso al GR, resta con noi Andrea, poi faremo gli altri titoli. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Sai, una da Ciro a Cocoruno, basterà un minuto, rimane le mani, vanno pure a Ciro. Un problema, non so quello. Hanno svuotato dappertutto, rotto tutto, cioè perciò tu non riconosci più casa tua, avevi lo schifo delle tue stesse cose. Che lo vogliamo o no, le storiacce sono intorno a noi. Possono essere negli abusi del vicino di casa, nelle prepotenze dei mafiosi, negli imbrogli di chi ostacola i nostri progetti, di chi ruba i nostri risparmi e rovina le nostre giornate. Ma perché? Se siete stufi, questo è lo spazio per voi. Un po' telefono amico, un po' sportello delle denunce. Sono Raffaella Calandra. Scrivetemi a storiacce@radio24.it per segnalare anche il vostro caso. Noi le storiacce le rendiamo pure mitiche. Scoprite come ogni sabato alle 21.30 su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. State ascoltando un programma offerto da... Aruba, soluzioni cloud per le imprese. Solo su www.cloud.it. Focus Economia. Sette minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, stavamo concludendo l'approfondimento di borsa con Andrea Fontana. Dicevamo, al di là della vicenda petrolio e quindi Saipem meno 5,50%, tu ci ricordavi anche di Eni, appunto declassata per via delle prospettive sul petrolio. Telecom, qui abbiamo dedicato anche i 100 secondi oggi, meno 3,80%, resta un po' di incertezza a partire dai vertici. Sì, oggi era proprio il primo giorno in cui si riuniva il comitato nomine per incominciare il percorso di individuazione ufficiale, diciamo, il percorso ufficiale di individuazione del sostituto dell'amministratore delegato. Chiaramente la settimana si era aperta positivamente, perché la stretta di Vivendi con la decisione di indicare un nuovo vertice sembrava prospettare nuove strategie magari più aggressive sul fronte anche di operazioni straordinarie, aggregazioni non solo in Italia. Chiaramente il mercato però si sta alleggerendo sul titolo, perché rimane l'incertezza su Telecom, sui vertici, come rimane l'incertezza delle operazioni straordinarie di Mediaset che coinvolgano o meno la PTV, e il titolo oggi ha perso un altro 4% dopo già una performance negativa ieri. Allora, migliori e peggiori, adesso arriviamo alle banche, tutta la prossima parte di Focus Economia dedicata alle banche. Dicevo, migliori e peggiori in assoluto oggi sul mercato. Allora, per quello che riguarda i migliori, cito Ambro Mobiliare più 5,70%, Club più 5%, RCS Media Group più 4%, Mondadori Editoriale più 2,80%. Magari andrei a un commento su Mondazzoli, visto che è arrivato il via libera, anche se, come ha lamentato in un'intervista oggi Marina Berlusconi, il sacrificio di dover cedere Bompiani e la quota della Marsiglia è un sacrificio pesante. Sicuramente un sacrificio pesante, però il mercato temeva che il via libera potesse essere ulteriormente procrastinato, oppure contenere delle sorprese che non erano emerse nell'indiscrezione dei giorni scorsi. Quindi comunque ha visto il bicchiere mezzo pieno, quello dell'operazione che si fa ed è importante per entrambi i gruppi. Oltre a Marina Berlusconi ha parlato anche la D di Mondadori, Ernesto Mauri, ha detto bene i libri, adesso ci concentriamo anche sullo sviluppo nel digitale. I peggiori in assoluto: Brioschi meno 7,80%, di Mail Group meno 8%, Stefanelle meno 6,70%. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore. E adesso parliamo di banche, partendo da quello che hanno fatto in borsa, e cioè le due banche oggetto di matrimonio, certo, a questo punto. Popolare di Milano meno 5,35%, Banco Popolare meno 4,80%. Va detto che oggi erano negative tutte, la maggior parte delle banche sul FTSE MIB, ma a questo punto nasce, ripeto, il titolo che abbiamo dato in maniera un po' scherzosa è Top of the Pop, dove Pop sta per le popolari. Nasce il terzo gruppo bancario italiano e il primo ex popolari, diciamo così, perché gli altri due sono intese a Unicredit, con 170 miliardi di attivi, 5 miliardi e mezzo di capitalizzazione, ripeto, 2500 sportelli, quasi 25.000 dipendenti per 4 milioni di clienti. C'è l'obiettivo, si è saputo oggi, visto che sto presentato il progetto di aggregazione, di tagliare l'esposizione sui crediti deteriorati, quindi le sofferenze, i crediti che non torneranno più indietro per 10 miliardi di euro nel periodo da qua al 2019, che è un obiettivo molto ambizioso. Faccio notare che il Banco Popolare è quello messo peggio nel rapporto tra crediti deteriorati, sofferenze e patrimonio, perché ha 14 miliardi di euro di crediti deteriorati, ossia il 17% di tutti gli impieghi. Vuol dire che dei soldi prestati, quasi uno su cinque, un euro su cinque, non tornerà indietro. Nella Popolare di Milano invece i cosiddetti non performing loans, i crediti deteriorati, si fermano a 3 miliardi e 700 milioni di euro. Duplice soddisfazione si basa sul fatto di essere stato un attore di questo deal, cioè ho partecipato attivamente, e la felice conclusione non può che essere motivo di soddisfazione, ma è duplice questa soddisfazione perché mi consente di chiudere anche la mia carriera professionale con un risultato positivo che è unico, perché la nascita della terza banca italiana non può che essere vista con grande soddisfazione non soltanto dal Banco e dalla Popolare di Milano, ma dall'intera industria bancaria nazionale. Stiamo costruendo una banca, ma una banca che ha tutte le caratteristiche per avere un futuro di grandissime soddisfazioni. Nasce una banca solida, abbiamo dato dimostrazione con un ultimo colpo di reni di voler far partire con tutte le nostre forze un soggetto che fosse visto come solido, forte, aggregante, protagonista nel sistema bancario italiano. Nasce una banca che è presente nei territori più ricchi del paese, il 77% della nostra presenza fisica sarà nel nord Italia. Abbiamo fatto nascere questa banca con un programma preciso, forte, solido di riduzione degli NPLs, che sono l'altro, direi, motivo che leggiamo tutti i giorni sui giornali, che in questo momento è sicuramente l'area di attenzione maggiore da parte di tutti, da parte dei banchieri, da parte dei regulator, da parte degli investitori. Ecco, daremo un messaggio forte e significativo sin da subito sia sulla riduzione degli NPLs sia sulla copertura delle esposizioni dei crediti non performing. Allora, nell'ordine avete sentito prima Saviotti, quindi Pierfrancesco Saviotti, numero uno, amministratore delegato del Banco Popolare, che dice: chiudo la mia carriera con un risultato unico. Va detto che Saviotti in effetti arrivò al Banco Popolare in un periodo difficilissimo, perché era travolto dallo scandalo Italease, la cacciata di Innocenzi, Fabio Innocenzi se non ricordo male. Ecco, il sì che sentite è di Fabio, ma un altro, Pavesi, non ce l'ho ospite, che ringrazio del Sole 24 Ore. Buonasera Fabio. Buonasera. Devo dire che insomma prese il Banco Popolare in un momento difficilissimo, perché la vicenda di Italease distrusse patrimoni e ricchezze, investimenti proprio nell'area in cui il Banco Popolare ha uno dei cuori. È il risultato della fusione Popolare Verona, Bergamo, Novara e Lodi. Però chiaro, insomma, la parte veronese è uno dei fulcri, se non il fulcro, diciamo, principale del Banco Popolare, senza nulla togliere a Novara, Bergamo e a Lodi. E l'altra voce che avete sentito è quella invece di Castagna, quindi di Giuseppe Castagna, numero uno della Popolare di Milano. Fabio Pavesi, e poi ringrazio anche per averci raggiunto in collegamento il professor Donato Masciandaro, editorialista del Sole 24 Ore, che ha scritto anche di questi temi e insegna politica monetaria alla Bocconi di Milano. Buonasera anche a lei, professore. Buonasera. Allora, vicenda risolta, Fabio, ne hanno ben d'onde di festeggiare i due protagonisti? Sì, sul piano industriale sicuramente, perché è vero che il sistema bancario nazionale è ancora molto frammentato e si va necessariamente a una concentrazione. Abbiamo troppi sportelli, abbiamo troppe banche e quindi va in quella direzione. Tra l'altro il vero vantaggio di questa operazione è che tu non sposi due criticità, ma sì, sposi una banca, la BPM, strutturalmente solida, perché BPM viene dal terzo anno consecutivo di utile, ha una redditività al 6,5% e ha requisiti patrimoniali tra i migliori del paese. Si sposa col Banco Popolare, che invece ha una storia più travagliata, perché, non ricordiamo, si porta non solo i Tallis, ma anche la Popolare di Lodi si è portata, con tutte, come dire, le eredità della gestione Fiorani. Il Banco Popolare ha fatto fatica negli ultimi anni, ha accumulato perdite fino al 2014. Il 2015 è diventato l'anno della svolta, cioè per la prima volta il Banco Popolare, gestione Saviotti, ha cambiato passo, ha fatto 400 milioni di utili, è riuscita a portare le rettifiche sui crediti a 800 milioni da 3 miliardi e mezzo l'anno prima, quindi la pulizia grossa è stata fatta. Un anno fa questa operazione è inconcepibile, perché il Banco Popolare non era messo le condizioni per sposarsi con la Popolare di Milano. Oggi, col 2015 del Banco Popolare migliore delle attese e con una banca di fatto che ha cambiato passo, questa cosa ha un senso. La differenza tra le due sta appunto negli NPL, cioè nei crediti deteriorati, perché la Banca Popolare di Milano, che pur è più piccola, capitalizza di più del Banco Popolare, cioè il mercato ha comunque premiato la Popolare di Milano negli anni passati rispetto al Banco Popolare, perché quei 14 miliardi di crediti deteriorati pesano. Adesso vedo questo piano di smaltimento molto ambizioso, come tutti i piani andrà poi messo alla prova. Però evidentemente cosa succede? Il vero valore aggiunto di questa operazione è che tu di fatto, mettendo insieme una banca più capitalizzata con una con tante sofferenze, tu annacqui le sofferenze. Cioè tu hai un soggetto nuovo che di fatto non ha più il pericolo di sofferenze in eccesso. Questo è il vero vantaggio dell'operazione. Ovviamente il Banco Popolare ha dovuto provvedere a un aumento di capitale, è quello che porta giù il titolo oggi, perché certo. Tu chiedi un aumento da un miliardo, vale il 17% della market cap, il mercato oggi ha fatto scendere il 5 ambedue i titoli. I titoli viaggeranno in parallelo d'ora in avanti. Beh, certo, sono sposati, non sono sposati, ma diciamo è 1-10, quindi se hanno fatto le pubblicazioni, esatto, così. Quindi se il Banco Popolare quota 7 euro, la Popolare di Milano quota 0,7, insomma il rapporto sarà questo in parallelo per i prossimi mesi. L'operazione è quindi buona sul piano industriale sicuramente. Dopo il traffico vorrei l'opinione su questo anche del professor Masciandaro e poi chiosa su quello che sembra dovrebbe uscire domani da Palazzo Chigi, che si andrà verso rimborsi per tutti gli obbligazionisti subordinati rimasti fregati dalla procedura di risoluzione attivata dal decreto del governo del 22 novembre, quindi Popolare Etruria, Carichieti, Marche e Ferrara, e quindi da quello che abbiamo capito potrebbero essere tutti rimborsati senza andare a fare l'arbitrato per capire quanto fosse il tuo profilo congeniale a quel tipo di strumento che ti è stato venduto. Dopo il traffico, 349-238-6666 per sms, whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Meno sportelli, più esuberi? No, devo dire, lo scrivono alcuni ascoltatori, che stando alle dichiarazioni rilasciate oggi da Saviotti, se non ricordo male, hanno escluso licenziamenti. Non ci sarà alcun problema per quanto riguarda i dipendenti, non ci sarà alcun licenziamento. Chi uscirà è perché vorrà partecipare ai fondi di solidarietà, cioè lo scivolo cosiddetto. Professor Masciandaro, l'operazione, e poi veniamo anche a quello che vorrebbe fare il governo sugli obbligazionisti delle quattro famose banche ormai. Il dottor Pavesi ha già anticipato alcuni aspetti rilevanti. Se posso aggiungerne uno anch'io, che riguarda questa fusione, ma riguarda in realtà tutte le banche. Il tema è, una volta si diceva, bisogna evitare che le banche siano troppo grandi per non poter fallire. Mi chiedo se adesso non sta diventando il contrario, cioè se si è troppo piccoli si salta sicuramente. Mi spiego, si stanno creando due grandi barriere all'entrata. Una è quella tecnologica, bisogna investire per essere una banca efficiente, e quindi bisogna avere dimensioni. L'altra è regolamentare. Sempre di più gli uffici compliance stanno diventando enormi. La domanda è: le banche piccole e medie possono sopportare queste barriere all'entrata? Compliance vuol dire insomma tutti gli oneri burocratici, amministrativi, legali a cui deve rispondere una banca, l'ufficio diciamo che si occupa di queste pratiche, lo spiego a tutti, prego. Grazie dottor D'Alessone. La domanda è soprattutto in un contesto in cui i margini dalle attività tradizionali stanno diventando sempre più piccoli, probabilmente non saranno zero, ma non vedo un sistema che va verso margini ampi. La domanda è, le fusioni diventeranno la strada obbligata, quindi il fatto che stiamo commentando secondo me ha una valenza anche maggiore rispetto all'episodio. Allora, su questo vorrei sentire anche Fabio Pavesi, poi vengo all'ultima parte. Il ragionamento del professor Mascinaro è chiaro, i margini si riducono perché coi tassi a zero il gioco, praticato di prendere soldi a breve con tassi bassi e prestarli nel medio termine alla clientela con tassi più alti non riesce a fare perché si sta appiattendo la curva dei rendimenti, cioè ormai rende pochissimo tutto anche a 10 anni. E ha invece dei costi che potremmo chiamare oneri burocratici, per la compliance vuol dire tutto quello che devi fare per disposizioni di legge o europee o della BCE o della Banca d'Italia o dello Stato italiano o della Consob, che sono dei costi fissi, per cui tu li hai sia che tu abbia 10 sportelli che tu ne abbia 10.000. E questo che cosa ci insegna però sui nuovi matrimoni possibili? La domanda del professor Mascedò è più che pertinente, cioè il tema è proprio quello, cioè i ricavi delle banche sono di fatto fermi e rimarranno fermi per molti anni finché l'Euribor sarà così basso. Il margine di interesse infatti è quasi negativo per tutti, compensano vendendo fondi con le commissioni e quindi i ricavi delle banche sono sostanzialmente stabili. Se però tu hai un costo sui ricavi che per alcune banche è al 70%, capisci che basta che tu rettifichi i crediti malati e vai in perdita. Noi abbiamo una miriade di banche piccole dove il cost income, cioè il rapporto costi-ricavi, è sopra il 60%, che è un limite fisiologico. Le grandi banche l'hanno ridotto al 50%. Però se tu sei una banca piccola e questa struttura di costi fissi e con il margine di interesse negativo, sfido chiunque a renderla profittevole. La NUI si lamentava che il sistema bancario europeo ha una redditività bassa ed è salito dal 2% al 4% in Europa. Io dico attenzione, perché se poi induciamo anche le banche a fare aumenti di capitale, il ROI si diminuisce ulteriormente. Però insomma è chiaro che se i costi fissi sono uguali per tutti, la dico male, sono uguali per tutti, più piccolo sei, più questo ti mangia il margine. Ti basta avere un credito che pensavi che ti tornasse in cassa e invece non ti torna più, per passare da un bilancio leggermente inutile a un bilancio in perdita. In un minuto, perché poi voglio andare al professor Mascinaro, Fabio, cosa ci insegna per le prossime possibili aggregazioni? Ma ci insegna che vanno individuati ovviamente due animali, li chiamo così, che abbiano non troppe criticità, se no si sommano e si moltiplicano, e che abbiano dei punti di forza che compensano punti di debolezza, e andranno studiate. Però ovviamente il percorso è che forse questo è davvero un primo battistrada per un percorso. Penso alle BCC, lì il governo ha detto siete troppe, dovete fare massa critica, la holding comune serve anche a quello, e il percorso è oramai tracciato. Allora, oggi tra l'altro il presidente della Fondazione Caripro Guzzetti ha detto presto vi sarà una soluzione, speriamo, anche per Monte dei Paschi e Cassa di Risparmio di Genova e per le due banche venete, e quindi Popolare Vicenza e Veneto Banca. Professor Mascinaro, lei, venendo al decreto di domani invece, intanto si vuole dare un commento anche sulle prossime aggregazioni, ma è d'accordo che a questo punto si saltino gli arbitrati? Beh, letta la notizia, se uno legge solo il titolo dice siamo alle solite, paga pantalone. Se uno va a leggere l'articolo, se la ragione è che i comportamenti delle banche erano talmente distorti per cui la probabilità che tutti siano stati fregati, quelli sì, l'ha detto in una maniera più efficace, allora uno legge l'articolo e comunque rimangono aperte le due ipotesi: siamo alle solite oppure è un doveroso provvedimento. Credo che lo potremo capire nei prossimi giorni. Sì. E quindi le dice, se ci si accorge che la spinta, la pressione a piazzare queste obbligazioni subordinate era così forte che diventa quasi impossibile distinguere se io ho un profilo di rischio o no, perché un conto che io insista, ma se chi insiste è lo sportello, ma prendile, e io posso essere anche uno che un po' di rischio accetta, ma in realtà devo dimostrare, è tutto da dimostrare che sia il mio profilo di rischio, non l'insistenza dello sportellista, averle fatte comprare, diventa meglio saltare l'arbitrato. Mi dice un'ultima cosa, professor Maciandaro, sulle prossime aggregazioni e fusioni, matrimoni? Ah, io credo che potrei solo dire peggio il commento che ha fatto il dottor Parisi. No, non c'è l'aggregazione, l'aggregazione buona e quella cattiva. Stiamo osservando che sembra che la strada della grande dimensione sia una strada obbligata. Questo apre una serie di interrogativi in termini di tutela della concorrenza anche rispetto al piccolo cliente. In questo momento credo che il tema della tutela della concorrenza non emerga in nessuna parte del mondo, perché la prima urgenza è quella della stabilità. Allora, vorrei chiudere con Anna Karenina, diciamo così, visto che parliamo di matrimoni, di storie d'amore, tutti i matrimoni felici si assomigliano gli uni agli altri, quelli infelici sono ognuno è infelice a modo suo, per cui andiamo a distinguere caso per caso, vediamo se così si riesce a capire. Non basta un matrimonio per fare una felicità, e la vicenda Pop Milano in senso positivo e Banca Popolare dimostra che poi bisogna studiarle bene questa operazione. Grazie e buona Pasqua quindi anche a Donato Masciandaro e a Fabio Pavesi. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Intanto, da Sebastiano Berisoni, l'auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.